bianche ossa lucenti, la nave adorna i ramponi bollenti, ogni muscolo è pronto. Dov'è quel marinaio dal cuore d'avorio? Giù a prua, signore, ma il suo è un credo perduto. Il profeta del porto, rum e foglie di coca, brinda agli abissi profondi e a una sposa annegata. In passato anch'io mi lanciavo oltre la nave, avevo il cuore in fiamme e cacciavo con ardore. Il capitano è convinto che Dio sia nascosto. Da tempi remoti, signore, nel ventre del mostro. E ha giurato davvero di averlo sentito cantare. Dal profondo lo chiama con il suo vero nome.